Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Andiamo a sorridere nel mondo della comicità, forse. Perché in realtà i comici si dividono in due categorie. Quelli che anche nella vita privata sono persone brillanti, simpatiche, che sanno stare con gli altri, e invece una seconda categoria, che temo sia la maggioranza, è composta da comici sul palcoscenico o davanti alla macchina da presa, in realtà persone tristi, depresse, un po' chiuse. E questo non è mai stato tanto vero come quando si parla di Peter Sellers, il mitico ispettore Clouseau, protagonista della nostra puntata di oggi. Eppure è uno degli attori che ha fatto ridere più gente in assoluto, vestendo i panni dello stralunato ispettore francese. Eppure quest'uomo aveva un lato oscuro dentro di sé. Sono il classico esempio di tutti i comici. Sono divertente solo quando lavoro. Sellers era famoso per essere un uomo difficilissimo, cupo, a volte addirittura cattivo. Era geloso fino alla malattia delle sue donne, era vendicativo con gli amici, con i colleghi, ed era scostante con i figli. Stare accanto a lui era una vera e propria fatica. Cadeva in depressione e poi c'erano i suoi scoppi d'ira, le sue stranezze che rendevano la vita di chi gli stava vicino un inferno. Sempre alla ricerca della donna perfetta, si è sposato 4 volte, ha avuto 3 figli che ha trattato quasi come estranei, arrivando praticamente a eliminarli dal suo testamento. E lui era soprattutto un uomo insoddisfatto, incapace di accontentarsi del presente, uno che non riusciva a godere di nulla perché costantemente alla ricerca di qualcosa che non aveva. I'd like to be happy, yes. Mi piacerebbe essere felice, sì, mi piacerebbe esserlo, davvero. Mi piacerebbe davvero essere felice. Uno potrebbe dirmi: sei un uomo di successo, sei un milionario, hai 3 bei bambini, la salute, la sicurezza materiale. E allora perché non sei felice? Why aren't you happy? E già, perché non riusciva a essere felice? Come sempre ci sono 1000 ragioni, alcune sconosciute a tutti, probabilmente altre sconosciute anche al protagonista. Era un insicuro, era un perfezionista, raramente riusciva a gioire dei propri risultati, però non era solo questo il problema. E probabilmente Sellers soffriva di un vero e proprio disturbo bipolare che lo faceva passare da momenti di profondo abbattimento a periodi di grandissima esaltazione. Se i momenti depressivi erano un disastro per chi gli stava intorno, nei periodi di entusiasmo le sue capacità istrioniche raggiungevano vertici altissimi, e in cui riusciva a creare e a caratterizzare una quantità di personaggi infiniti con un grande maestria. In quel momento lui si trasformava letteralmente, con la voce, col fisico, coi gesti, con l'andatura, con la postura, dava vita a creature originalissime, una dote che il regista Stanley Kubrick, che lo ha diretto sia in Lolita che nel Dottor Stranamore, ammirava enormemente. Mentre si andava avanti con il lavoro, sembrava come se Peter reagisse a quanto accadeva in scena. Il suo umore andava via via rasserenandosi e iniziava a divertirsi. Cominciava a improvvisare e le sue idee funzionavano. Le prove andavano bene. E in occasioni come queste, Peter sembrava raggiungere quella che potrei solo definire come una specie di estasi comica. E probabilmente gli unici veri momenti di estasi, come dice Kubrick, o almeno di serenità nella sua vita, erano quando lui si trovava sul set. Forse perché la recitazione per lui era un atto naturale, quanto per la maggior parte dei ragazzi era naturale, non so, dare un calcio al pallone nel campetto dietro casa. The only time that you're really happy. L'unico momento in cui sei veramente felice è quando fai le cose. Non quando esce il film, non quando ti stai preparando per il film, ma proprio nel momento in cui stai recitando la scena, sul campo. Solo quando sei lì e in quel momento esce qualcosa da dentro di te e l'hai fatto e ti ricordi di quel momento, ecco, è allora che raggiungi quel senso di compiutezza, di pienezza. Anche se poi guardi il girato e pensi, ma insomma. E lo spettacolo fa parte della vita di Peter Sellers sin da bambino, perché i genitori sono 2 attori di varietà. La prima volta che lui calca le scene ha solo 2 settimane e il pubblico festeggia l'avvenimento cantando, con il solo risultato di farlo piangere, perché non c'era molto da ridere in realtà. Padre e madre sono costantemente in tour. Fin da piccolo Peter, che in realtà è stato battezzato Richard Henry, viene sballottato in giro per l'Inghilterra al seguito dei genitori. E però fin da piccolo, abbiamo detto, i genitori lo chiamano Peter in memoria del figlio primogenito nato morto, quindi già, come dire, un fardello da portare appena nato. E Sellers rimane figlio unico e, come molti figli unici, cresce solitario, senza amici, come unico orizzonte lui ha il palcoscenico dove i suoi genitori lavorano. Ha un rapporto strettissimo con la madre Peg, fin troppo probabilmente, perché lei è una donna forte che domina il figlio, che lo comanda a bacchetta, e nonostante tutto, forse proprio per questo, per tutta la vita Peter Sellers la considera la persona più importante della sua esistenza. Brutto indizio. Mi ricordo che quando morì mia madre, nonostante avessi già dei figli, sentii come se con lei se ne andasse la mia ultima relazione davvero intima, e sentii un senso di profonda solitudine, perché non potevo più prendere in mano il telefono e parlare con lei. Il falco e il gabbiano. Peter Sellers, il grande interprete dell'ispettore Clouseau, e non solo. Un figlio d'arte, segue i genitori, è in giro per i teatri di Inghilterra, e dà non solo una mano in biglietteria, ma ogni tanto comincia a recitare, suona l'ukulele, inizia a imparare a suonare la batteria e poi comincia a specializzarsi in quello che diventerà uno dei suoi punti di forza, le imitazioni. Fino da quando è a scuola riesce a mimare i suoi compagni o i professori, è bravissimo, talmente bravo che alla fine comincia a essere difficile capire quale sia la sua vera personalità in mezzo a quella sfilza di personaggi che continuamente imita o che inventa di sana pianta, forse per difendersi. La verità è che non sono mai stato un comico di successo. Sono stato, ancora lo sono, una persona, un attore, che mette in scena del materiale umano. Forse ho un po' di fiuto per quel che riguarda il lato divertente delle cose, ma non posso dire in tutta sincerità di essere un comico di successo. E intanto tra un personaggio e l'altro si arriva alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943 Peter ha 18 anni e riesce a farsi arruolare dalla RAF, anche se, come ha detto, all'intrattenimento. Praticamente suona la batteria, canta, racconta barzellette, fa le sue famose imitazioni. Naturalmente i soldati lo adorano, anche perché lui naturalmente imita soprattutto gli ufficiali appena questi si assentano. Ma la vera svolta arriva con la fine della guerra. Sellers è sempre stato un fan accanito della radio, però ogni suo tentativo di ottenere un provino era fallito, fino a quando, imitando al telefono la voce di un famoso conduttore dell'epoca, si autoraccomanda al produttore Roy Spear. Quando Spear scopre lo stratagemma, si diverte così tanto che comunque gli fa ottenere questo agognato provino in BBC. I said, it's me, Peter Sellers talking, and it's the only way I could get to you. Alla fine gli dissi, sta parlando con Peter Sellers, era l'unica maniera per mettermi in contatto con lei, mi faccia fare un provino per il suo show. E lui mi rispose, sfacciato stronzetto. Cosa hai fatto? E io, beh, ovviamente stavo facendo un'imitazione. Avevo 22 anni all'epoca, andai a fare il provino ed entrai nel programma. E mi diedero anche un autore. Fu molto bello. Dal 49 al 51 comincia a partecipare a programmi radiofonici e poi arriva la grande occasione. A teatro incontra l'autore Spike Milligan, che ha scritto un nuovo programma che si chiama Goon Show. Grazie a un'incisione dimostrativa preparata da Peter, i tre riescono a portare lo show in BBC e la prima puntata va in onda nel maggio del 51. Da allora lo show va avanti 10 anni, ottiene un successo enorme. Ve ne faccio sentire un piccolo pezzetto in lingua originale, giusto per farvi capire il livello. And who are you, little blotchy lad? I will show you. Moves right, keeping hole in seat of trousers away from vulgar gaze of audience. Nodding. Whip, whip, whip. Takes off false boots, revealing false feet. Right, so that's who you are. Yes. Goon Show. Goon si può tradurre come gli scemoti, i babbei, lo show dei babbei, diciamo. In effetti Sellers, Milligan e Harry Socombe, il terzo autore, per mezz'ora non fanno altro che inventare gag, raccontare barzellette, fare imitazioni, condurre conversazioni totalmente irreali. Lo show va avanti per anni, le registrazioni fanno il pieno di pubblico, i personaggi principali interpretati dai tre diventano famosissimi, soprattutto ovviamente quelli interpretati da Sellers, e fra questi il più amato è Blue Bottle. È uno scout molto alto che parla con la voce in falsetto, e l'abbiamo sentito un minuto fa, e come sempre il personaggio gli è stato ispirato da un incontro accaduto davvero in quel periodo. Blue Bottle arrivò per davvero una sera, durante un mio spettacolo al teatro British Empire. Arrivò questo scout molto alto e con la barba rossa. Non era grasso, ma era molto grande, molto. Con gli shorts e le ginocchia bianche, quel genere di cose. Mi disse: mi spiace interromperla, ma i miei compagni pensano che io sia un genio e che dovevo vederla. Ecco cosa disse. Il Goon Show consacra Sellers come grande attore comico. Lo show arriva a avere più di 7 milioni di spettatori. È considerato dalla stampa dell'epoca il programma comico più amato di tutti i tempi. Viene cancellato nel 60 dopo 10 trionfali edizioni. Però a quel punto Sellers recita già da tempo al cinema e sta per conquistare anche Hollywood. Intanto, durante i suoi esordi alla BBC, Sellers ha conosciuto e ha sposato una giovane attrice di origine australiana, Anna Howe. Insieme hanno due bambini, Michael e Sara. Però non è certo lui un tipo tutto casa e famiglia, perché la sua vita si concentra soprattutto sul lavoro. Verso la fine degli anni 50 inizia a recitare in un po' di film, tra cui il delizioso La signora omicidi con Alec Guinness. E sul set di La miliardaria anche la sua vita privata va a rotoli, perché nella commedia recita assieme a Sophia Loren, di cui si innamora perdutamente, non possiamo biasimarlo. Però lui, che è già sposato, le propone addirittura il matrimonio. La Loren rifiuta, ma la passione di Sellers è tale che la moglie è costretta a chiedere il divorzio. Il falco e il gabbiano. Peter Sellers è uno dei più grandi talenti comici del secolo che si è appena concluso. È uno famoso per la sua capacità di immedesimarsi totalmente nei suoi personaggi, e qui sta il problema, perché a volte diventa difficile per lui distinguere la realtà dall'improvvisazione, e i personaggi finiscono per prendere il sopravvento sulla sua vita. Continua a fare interviste nelle quali cambia voce, è frastornato, il più delle volte considera meno divertente la sua vita personale di quella delle sue creazioni. Il risultato è una specie di scissione, è una incapacità di essere una persona e non solo un personaggio. Però lui ne è dolorosamente consapevole, tanto da ammetterlo anche in un'intervista a Kermit, sì, proprio alla rana dei Muppet Show. Sai, Peter, io adoro tutti i tuoi personaggi, ma adesso siamo dietro le quinte e ti puoi anche rilassare ed essere te stesso. Ma vedi, mio caro Kermit, sarebbe del tutto impossibile. Non potrei mai essere me stesso. Come non essere te stesso? Vedi, non c'è un me stesso. Non esiste. Scusa. C'era un me stesso, ma me lo sono fatto rimuovere chirurgicamente. Certo, è una battuta, è fatta a uso e consumo di un programma per bambini, però in realtà la frase "mi sono fatto rimuovere il me stesso chirurgicamente" nasconde neanche tanto una realtà molto complessa. L'episodio del 78, dove insomma molto del malessere di Peter Sellers è esploso. Però torniamo indietro, siamo ai favolosi anni 60, favolosi soprattutto per alcuni, soprattutto per gente come lui, che in quel decennio mette a segno le sue produzioni più famose. Intanto nel 62 Stanley Kubrick lo chiama per recitare nel film Lolita, dal romanzo di Nabokov. Il suo ruolo è quello del commediografo Claire Quilty, un personaggio minore nel libro, ma Kubrick è talmente affascinato dalle capacità di Sellers di creare nuove identità che amplia la sua parte. L'anno dopo, nel 63, arriva un ruolo che lo renderà famoso in tutto il mondo. Guten Tag. Buongiorno. Mio nome è professor Guy Goodnall. Abito in castello medievale poco lontano di Marseille. E dites-moi, avreste una stonza? Non ho idea di che cosa possa essere una stonza. Zimmer. Ah, una stanza. È quello che avevo detto io, vecchio idiota. Stonza. Zimmer. Il suo cane morde? No. Saluti, cane. Aveva detto che il suo cane non mordeva. Quello non è mica il mio cane. Avete riconosciuto tutti il mitico ispettore Clouseau. Il primo film della serie è intitolato semplicemente La Pantera Rosa. E lì Clouseau non è una figura particolarmente rilevante, perché il vero protagonista è David Niven nel ruolo di Sir Charles Lytton, che è un ladro gentiluomo. Però l'interpretazione di Sellers è talmente buona che la critica attribuisce il successo del film a lui, che non avrebbe neanche dovuto esserci, perché inizialmente il ruolo era stato offerto a Peter Ustinov, ma i litigi di quest'ultimo con il regista gli fanno abbandonare il progetto prima ancora di iniziare le riprese. E Sellers ha il vero colpo di fortuna, un colpo d'ala ma molto fortunato, anche se se lo merita, perché in 3 giorni studia e impara le battute del personaggio. Il famoso accento dell'ispettore Clouseau non era previsto originariamente, è venuto dopo. L'idea mi è venuta ascoltando questo brillante portiere di un hotel di Parigi dove avevo l'abitudine di fermarmi. Era un maestro nel trattare i turisti americani. Gli parlava con uno strano accento che non era francese, ma suonava francese a chi era di lingua inglese. E il successo è enorme. Clouseau diventa un personaggio amatissimo dal pubblico, tanto che tra capolavori e film meno buoni Sellers recita in 5 film della saga. Forse il segreto è nella capacità di Sellers di rendere il suo ispettore non una semplice macchietta, ma un uomo, nonostante tutto, concreto, umano. Clouseau mi diverte non perché faccia guai, ma perché è così serio e ha quest'incredibile dignità. Lui pensa davvero di essere il più grande detective del mondo. Ed è per questo che lo trovo divertente. Eh sì, la chiave è quella, l'ostentata sicurezza di Clouseau e invece la realtà che è ben diversa. Comunque il successo personale di Sellers non cambia la sua natura insicura. E se è vero quello che ci racconta Claudia Cardinale, che nel primo film della Pantera Rosa interpretava la principessa indiana Dala. Peter Sellers ci faceva così tanto ridere sul set che a volte era difficile girare con lui. Ma nel momento in cui le cineprese si spegnevano, era il più cupo degli uomini. Non ho mai conosciuto un attore più triste nella vita. Era facile indovinare perché aveva bisogno di recitare. Non si piaceva. Continuava a deridersi. Il formidabile Peter Sellers faceva cinema perché al di fuori del set non si sentiva esistere. È incredibile che un uomo così convinto di non esistere riuscisse a modulare una tale quantità di personaggi in maniera così accurata, così sensibile, piena di sfumature. Le sue capacità sfiorano la perfezione quando l'anno dopo, siamo nel 64, Kubrick lo chiama di nuovo, questa volta per interpretare il famoso Dottor Stranamore in il film che si chiama Il Dottor Stranamore, ovvero Come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba. Per l'occasione Sellers interpreta 3 diversi personaggi, oltre all'ex scienziato nazista anche il presidente americano e l'ufficiale inglese. In realtà avrebbe dovuto interpretarne 4, ma all'ultimo momento Sellers, tremato dalla prova, rinuncia a uno dei ruoli. Per tutti e 3 i personaggi Kubrick dà carta bianca a Sellers, che ha il permesso di improvvisare come e quando vuole. Era l'unico attore che io conoscessi che sapeva davvero improvvisare. L'improvvisazione è molto utile durante le prove, quando si esplora il proprio personaggio. Ma la maggior parte degli attori, quando improvvisano, tendono a ripetere sempre lo stesso canovaccio, che poi li porta ad un vicolo cieco. Invece Sellers, anche quando non era molto in forma, dopo un po' entrava nello spirito del personaggio ed era come se decollasse. Era un miracolo. pensare che un strano amore. Ma che razza di nome sarebbe? Non è mica un nome tedesco. Se l'è cambiato quando ha preso la cittadinanza. Si chiamava Norbert Kliebe. Signor Presidente, i mezzi necessari sono alla portata di qualsiasi potenza nucleare, per quanto piccola sia, per quanto modesta. Ci vuole solo la volontà di farne uso. E qui tutta l'essenza di questo ordigno. La deterrenza è l'arte di creare nell'animo dell'eventuale nemico il terrore di attaccare. Beh, citiamo anche Oreste Lionello, perché i doppiatori italiani hanno fatto molto per molti attori stranieri, e Lionello qui è un gigante del doppiaggio. Comunque, la tripla interpretazione fa sì che Peter Sellers ottenga la nomination agli Oscar. Non vince, però la sua stella diventa sempre più luminosa, e nel 64 si sposa una seconda volta con una giovanissima attrice svedese molto molto carina, Britt Ekland, che all'epoca ha 20 anni mentre lui ne ha 37, e amore a prima vista. Dopo 11 giorni dal primo incontro i due si sposano. Passione, sesso e poi i problemi. Dopo appena 2 mesi dal matrimonio, per garantirsi l'orgasmo perfetto, una notte Sellers prende un popper, che è, come spiegarvelo, è una droga fortemente stimolante, e insomma il risultato è una serie rapidissima di attacchi di cuore che lo mandano all'ospedale. Viene considerato morto per 2 minuti e mezzo, fino a quando i dottori riescono miracolosamente a rianimarlo. Se ti capita di avere 13 attacchi di cuore di fila e che il sangue non ti arriva al cervello per 2 minuti, credo che qualcosa ti possa accadere, anche se i dottori mi hanno detto che non ci sono stati danni al cervello. Di quei momenti ho un ricordo molto preciso nel profondo di me stesso. Una cosa che so solo io, nonostante abbia avuto un periodo di vuoto e di perdita di memorie. Ma è una cosa che ricordo chiaramente, ed è una sensazione. La sensazione che quello non sarebbe stato il mio ultimo respiro. Che in realtà quel giorno non sarei morto. E quel giorno non muore, però le cose non vanno comunque bene. Anche se nasce una figlia, Victoria, dal matrimonio con Britt Ekland, il rapporto peggiora. Dopo 4 anni i due divorziano. Nello stesso anno muore la madre amatissima, e lui è sul set e non riesce a vederla per l'ultima volta. Fra i tanti successi, da Ciao Pussycat al grande Hollywood Party, film che vi consiglio, per me è il film migliore di Peter Sellers, un'idea geniale, ed è un film recitato divinamente, sceneggiato divinamente. Comunque, tra questi successi capitano anche invece gli insuccessi, come quando qualche film non va bene, e la tendenza alla depressione di Sellers in questo caso si fa sentire sempre di più. Intanto si risposa di nuovo, questa volta è una modella, si chiama Miranda Corry, ma anche in questo caso il matrimonio naufraga dopo appena 3 anni. Mi sento estremamente vulnerabile e ho bisogno di aiuto, un sacco. Suppongo che sento principalmente di aver bisogno dell'aiuto di una donna. Sono continuamente alla ricerca di questa donna, una che sappia essere materna, che sia fantastica a letto, che sia come una sorella, che ci sia quando hai voglia di vederla, che sparisca quando non hai voglia. Dov'è questo genere di donna? Forse esiste da qualche parte, e forse ne troverò una così, uno di questi giorni. E io conosco molti uomini che hanno finito la loro vita cercando questa donna che, ahimè, palesemente non esiste. Crede di trovarla, per esempio, quando conosce Liza Minnelli, con la quale vorrebbe fidanzarsi, ma anche in questo caso lei non è quella giusta. E lui ormai è sull'orlo di un esaurimento nervoso, diventa sempre più intrattabile, e gli amici sono preoccupati e i figli lo ricordano come persona scostante e a volte addirittura crudele, un padre che quando erano bambini li svegliava di notte per dire che si era innamorato di un'altra donna, come era successo quando si era invaghito di Sophia Loren, oppure che chiede ossessivamente ai bambini se vogliono più bene a lui o alla mamma, e al minimo litigio li minaccia di non volerli vedere mai più. Insomma, non c'è più con la testa, né come padre né come uomo. Abusa di alcol e di cocaina, ha un secondo attacco di cuore e questa volta gli viene messo un pacemaker. Si sposa per la quarta volta con la giovane attrice Lynn Frederick, e anche questa volta è un fallimento. Intanto ha compiuto 50 anni, forse anche per questo decide di accettare un ruolo drammatico nel film Oltre il giardino, insieme a Shirley MacLaine. Signor Presidente, le voglio presentare un mio carissimo amico, il signor Shantz Giardiniere. In televisione, signor Presidente, lei sembra molto più piccolo. Devo avvertirla che Shanzi non è uomo da giri di parole. Ne parlavamo prima. Oltre il giardino è uno dei miei film di riferimento, un film veramente innovativo, un film bellissimo. Tra l'altro l'interpretazione di Shanzi il giardiniere è superlativa, gli vale la sua seconda nomination agli Oscar, ma anche questa volta non riesce a conquistare la statuetta e non ci saranno più altre occasioni, perché Peter Sellers muore l'anno dopo, nell'80, a 55 anni. In un ultimo atto di autoderisione chiede che al suo funerale venga suonata la canzone che sentite in sottofondo, In the Mood, canzone che lui ha sempre detestato. Ai tre figli lascia solo 800 sterline, mentre l'intero patrimonio va alla moglie Lynn, dalla quale aveva già deciso di divorziare. Insomma, un ultimo scherzo perfido e assurdo di un uomo tormentato che per tutta la vita sarà insicuro riguardo al suo enorme talento, incapace di trovare se non la felicità, almeno la serenità in se stesso e nel mondo che era costretto a vivere e nel mondo che lo circondava. I don't have anything nice. Non mi viene in mente niente di più bello che essere al mare, su una barca, arrivare in un porto e attraccare, scendere quando vuoi scendere, mangiare a bordo, nuotare. È il vero lusso per me. Se mi chiedi quale sia per me il vero lusso materiale che mi ha dato la vita, risponderei che è la mia barca. Ci sono persone che hanno saputo dare molti colpi d'ala, ma che in qualche modo li hanno pagati cari, perché magari la loro stabilità non era pari al loro talento. Era il caso, per esempio, di Peter Sellers. È riuscito, ma ha avuto cadute e risalite molto repentine, ma soprattutto verrà ricordato per essere il comico che non è mai riuscito a far ridere se stesso. Se volete mandare i vostri commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano, @radio24.it, visitate la nostra pagina, oppure venite a cercare me, sempre ricordando che potete risentire nel podcast le puntate che avete già ascoltato, se vi piacciono, o se non le avete ascoltate, venite a cercarle, che lì le trovate. E poi mi trovate quando e come volete sulla rete, come si dice oggi. Ciao, a domani.